All'altezza del civico 82 di Strada Maggiore c'è una lapide che riporta questa iscrizione. Nell'anno 1455 Aristotile Fioravanti Bolognese, con nuovo ardimento, qui trasportò in tattà per spazio di più che 13 metri la torre di Santa Maria della Magione, alta 25 metri, che fu demolita nel 1825. La lapide celebra uno degli avvenimenti più prodigiosi a cui i bolognesi abbiano mai assistito, lo spostamento di una torre. In realtà stiamo parlando di un campanile, quello della Magione Templare di Santa Maria del Tempio, ubicata in Via Maggiore, tra Via Torleone e Vicolo Malgrado. La torre in questione venne spostata da un angolo all'altro del palazzo, in pratica dall'angolo di Via Torleone a quello di Vicolo Malgrado. A commissionare l'impresa fu il commendatore Achille Malvezzi, dietro il compenso di ben 150 lire. Ma la vera domanda è: per quale motivo si sposta una torre? La versione ufficiale è che limitava la vista delle due torri dalla finestra della residenza di Malvezzi. Ma forse c'è un'altra spiegazione. Per capirla, dobbiamo fare un passo indietro a quando i Cavalieri Templari si insediarono a Bologna. Era il lontano 1161. E costituirono la loro sede principale, la Magione, come era loro abitudine, fuori dalle mura cittadine. Scelsero di insediarsi poco lontano dal complesso stefaniano, che peraltro contribuirono a rivitalizzare grazie ai loro rapporti con la Terra Santa. Nel giro di poco tempo, quella di Bologna diventò una delle sedi più importanti e più ricche dell'ordine templare. I Templari, infatti, alle attività militari strettamente legate alla loro presenza in Terra Santa, avevano affiancato una fiorente attività bancaria, la più avanzata e capillare dell'epoca. Per i possedimenti templari a Bologna si parla di circa 83 ettari di terreno, 24 case cuppate, provviste di tegole, un palazzo, due chiese e due tenute agricole. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Il re di Francia Filippo IV, il Bello, nel 1307, indispettito dallo strapotere dei Templari e allo stesso tempo ansioso di mettere le mani sui loro tesori, fece istruire un processo a loro carico. Nel giro di pochi anni, l'ordine venne smantellato e molti dei suoi esponenti bruciati a rogo per eresia, dopo che erano stati confiscati i loro beni, naturalmente. Sebbene la persecuzione nei confronti dei Templari si estendesse a tutta Europa, il processo più importante fu quello di Parigi, durante il quale fu un bolognese, il frate cappellano Pietro da Bologna, uno dei quattro avvocati designati dai confratelli per la difesa. Tale scelta non fu certamente casuale. In gioventù, Pietro era stato compagno di studi, proprio all'Università di Bologna, del nobile francese Bertrand de Gaulle, ovvero colui che sarebbe diventato pontefice con il nome di Clemente V. Papa che, tuttavia, non ebbe la forza necessaria per opporsi a Filippo il Bello e che finì semplicemente per assecondare il volere del monarca francese. Trascinato in udienza in catene lui stesso, Pietro da Bologna si spese in un'accorata difesa dei suoi confratelli, denunciando le torture subite dai membri dell'ordine e chiedendo il proscioglimento dai capi d'accusa per tutti, anche per coloro che avevano confessato, perché lo avevano fatto sotto tortura o perché minacciati di essere sottoposti a supplizio. Purtroppo non ottenne il risultato sperato. L'11 maggio 1307, 54 templari, scelti proprio tra i suoi testimoni, furono condotti a rogo. Non stupisce quindi che dal 18 maggio si perdono le tracce di Pietro da Bologna. A lungo si è dibattuto su che fine abbia fatto, finché l'analisi di un documento ritrovato presso l'archivio di Stato di Bologna non ha rivelato, nel 1313, la presenza di un certo Pietro da Monte Acuto, già procuratore dei Templari per Bologna e Modena, tra i firmatari di un documento amministrativo. È quindi possibile che Pietro da Bologna sia fuggito dal carcere parigino per poi ritornare, con una nuova identità, in madrepatria. Vale la pena sottolineare che Bologna è stata l'unica città europea ad assolvere i Cavalieri Templari, grazie all'intercessione dell'arcivescovo di Ravenna Rinaldo da Concorezzo, che si adoperò anche perché gli imputati non fossero sottoposti a tortura e anzi trattati con umanità. È conservato nell'archivio arcivescovile di Ravenna un documento nel quale richiede la fornitura al precettore templare bolognese sottoposto a processo di 7 corbe di frumento e altrettante di vino buono, 4 libbre di bolognini per vestiti e calzature, un totale di 5 soldi di bolognini al giorno per le altre necessità e 10 libbre di bolognini al giorno per la legna. Infine, 5 libbre di bolognini al giorno per il salario del domestico. Il trattamento di favore riservato da Rinaldo da Concorezzo ai suoi templari non mancò di indispettire Papa Clemente V, che si dovette limitare però a esprimere energicamente il suo disappunto. A Bologna i templari erano stati arrestati dall'Inquisizione il 24 agosto 1308 e, come era già avvenuto nel resto d'Europa, i loro beni furono sequestrati. Tuttavia, quando i funzionari fecero irruzione nella magione bolognese, la trovarono quasi completamente vuota. I cavalieri, informati degli arresti avvenuti in Francia l'anno precedente, avevano provveduto a nascondere gran parte delle loro ricchezze. E qualcuno cominciò a spargere la voce che nelle fondamenta della Torre della Magione fosse stato sepolto un tesoro. Oltre un secolo dopo, Achille Malvezzi doveva esserne convinto, perché pare che il vero scopo dello spostamento della torre fosse proprio impadronirsi del tesoro dei Templari. Perché non demolirla, dunque? Semplice. Temeva che un intervento radicale avrebbe rischiato di compromettere il tesoro. Tesoro che non venne trovato, ovviamente. Non venne trovato nulla nemmeno da Luigi Aldini quando demolì la torre perché degradata. Ma torniamo a quel 12 agosto del 1455, quando Aristotele Fioravanti, di fronte all'intera cittadinanza radunata per l'occasione, iniziò le procedure per lo spostamento della Torre della Magione, che per la cronaca era alta ben 25 metri. Per farlo, la distaccò dalle sue fondamenta facendola posare su una base di legno, che a sua volta poggiava su dei cilindri di legno di rovere rivestiti da spesse lamiere di ferro. Imbragò la torre con una specie di armatura e tramite un sistema di funi e di argani la fece traslare verso la nuova posizione, dove era stata preparata una nuova fondazione. Lungo il tragitto era stata scavata una fossa che fungesse da rotaia, che durante le operazioni, però, si riempì d'acqua a causa di un fortissimo temporale scoppiato nel frattempo. Questo non bastò a fermare l'ingegnere, che dimostrò coraggio e sangue freddo anche quando, proprio mentre stava per sistemare la torre alla nuova fondazione, quest'ultima iniziò a inclinarsi a causa del cedimento di due dei rulli trasportatori. Conosciamo i particolari dell'impresa grazie all'assistente di Fioravanti, il capomastro Gaspare Nadi, che ne scrisse un resoconto dettagliato. Sappiamo che valse a Fioravanti il soprannome «Magistro Aristotele che muove le torri», e che l'eco dei suoi successi valicò le frontiere, al punto che i principali sovrani europei richiesero i suoi servigi. Una curiosità. Aristotele Fioravanti lavorò alla corte del re d'Ungheria Mattia Corvino, per il quale innalzò ponti e castelli, tra cui quello di Buda. Il re fu così grato che fece battere moneta con il volto dell'ingegnere, ma questo creò qualche problema al ritorno in patria, dove Fioravanti venne arrestato con l'accusa di essere un falsario. Solo l'intervento del re ungherese in persona ne permise la scarcerazione. In seguito, Fioravanti fu chiamato in Russia dallo zar Ivan III, dove innalzò opere straordinarie, tra le quali spicca la Cattedrale dell'Assunzione, costruita sulla base di un'intelaiatura di ferro analogamente a quanto avviene oggi con il cemento armato. Le sue tracce si perdono durante le molte campagne belliche a cui partecipò in veste di ingegnere militare. Forse morì a Mosca nel 1486. Il suo genio ha suscitato l'interesse della rete televisiva History Channel, che gli ha recentemente dedicato un documentario. Per quanto riguarda il tesoro dei Templari, sfortunatamente non è mai stato ritrovato, ammesso che sia mai esistito. Un vero e proprio tesoro, però, è possibile ammirarlo recandosi nel palazzo che fu la loro antica magione, attualmente proprietà della chiesa di Santa Caterina. Ancora oggi, nonostante le ristrutturazioni del complesso avvenute nei secoli, ci si può arrecare nella Sala dei Cavalieri, con l'originale soffitto in travi di legno e le spesse mura, su cui si aprono le suggestive finestre con archi a sesto acuto. Una torre dentro la torre.